nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, un programma dedicato alle donne che lavorano, alle donne che vorrebbero lavorare e invece non lo trovano, anche alle donne che sono sempre lì dilaniate tra la famiglia, la vita professionale, la vita privata. Ed è un programma che si è scelto un nemico. E il nemico nostro si chiama multitasking, è un nemico subdolo, perché tutte noi sappiamo benissimo che ci prosciuga l'anima e la vita fare tante cose contemporaneamente, ma negli ultimi anni siamo state lobotomizzate, ci hanno fatto un lavaggio del cervello tale per cui se non siamo multitasking ci sentiamo veramente fuori dal mondo. Eppure, ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, non è una fissazione di Nessuna è Perfetta. È una cosa riconosciuta da neuroscienziati di fama internazionale come Earl Miller, neuroscienziato dell'MIT. Il nostro cervello, mentre noi siamo impegnati a fare 5 cose contemporaneamente, subisce danni peggiori di quelli che comporta l'utilizzo, per esempio, della cannabis. In realtà poi, quando voi state mandando un messaggio sul vostro iPhone o sul vostro BlackBerry e contemporaneamente attraversate la strada, vi può succedere anche qualcosa di tremendo. Per esempio quello che è successo a me, mi stavano mettendo sotto. E quindi eccomi qui, prova vivente di come il multitasking possa essere addirittura mortale. Sono scampata per un miracolo e soprattutto ho dovuto affrontare il giusto rimprovero dell'automobilista. Ma che stai a fare? Mi ha detto, mentre io stupidamente continuavo a mettere messaggi sul mio BlackBerry. È pericoloso, è veramente pericoloso. Comunque, quando pensiamo di essere multitasking e passiamo in realtà da un compito all'altro, perché è quello poi essere multitasking, spesso siamo anche in passaggio sui social network. Quanti di voi in ufficio stanno un po' o un po' tanto sui social network, stanno su Facebook, e quanti di noi giornalisti, per esempio, twittano mentre fanno altre tre cose contemporaneamente? Millward Brown, una multinazionale americana specializzata in ricerche di mercato nell'ambito dei media e della comunicazione, ha condotto uno studio per conto di Google per dimostrare che l'impiego dei social network in ambito aziendale migliora parecchio la resa lavorativa. Aiuta a gestire meglio il tempo libero a disposizione di tutti i dipendenti e addirittura migliora le carriere. Sarà vero? Beh, certo, per i giornalisti, per esempio, Twitter è uno strumento di lavoro, ma c'è chi se ne approfitta e c'è chi invece di lavorare gioca. Produttività, ma non solo. Le carte in tavola quando si parla di social sono tante: sicurezza aziendale, efficienza, diritto alla privacy. Come sapete, ormai da un bel po' c'è in atto una vera e propria sfida tra Apple e l'FBI. Il braccio di ferro sul concetto di privacy e di sicurezza nazionale ha sollevato un polverone globale, come è normale che sia quando si parli di social media, e voi sapete che tempo fa è stato perfino arrestato il vicepresidente per l'America Latina di Facebook, Diego Jorge Zodan, è stato accusato di non aver collaborato ad alcune indagini in corso per accedere ai dati contenuti su alcune chat di WhatsApp. Il tema scotta. Sono curiosa di sapere cosa pensa di questo e cosa pensa in generale di privacy e di invasioni sui social media. Uno che sui social media ci sta e che social lasciatemi dire, per antonomasia. Benvenuto, buona domenica da Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. Insomma, io parlo al giornalista di carta stampata, ma anche a quello che sulla 3 con Reputation, quanto vali sul web, in ogni puntata racconta l'ospite e analizza il suo profilo sulla rete. Dunque sei un esperto di social. Lo spero. Buona domenica intanto. Buona Maria, domenica. Felice di sentirti. Che cosa ti ha suscitato, e se hai una posizione su quello che è accaduto, che sta accadendo, tra la richiesta che l'FBI ha mosso a Facebook e la risposta dell'azienda? Sai, sulla privacy tecnicamente non fa una piega il ragionamento di Apple, come non fa una piega il ragionamento di Facebook. È anche vero che l'FBI fa benissimo a chiedere quello che ha chiesto. Io trovo che di fronte a queste indagini la privacy viene meno, perché decade e c'è una priorità di tipo legislativo, di tipo giuridico. Però tecnicamente il concetto di privacy che prova ad applicare la Apple non fa una piega. Siccome noi, come sai, siamo una trasmissione che parla soprattutto alle donne che lavorano, io vorrei riportarti sul nostro terreno. Secondo te sono meno consapevoli di quanto appunto i social possano anche influire sul futuro, a seconda di quello che scrivi, le donne o gli uomini? E sono più brave le donne o gli uomini nel profilarsi sui social? Ma guarda, io i social li frequento per divertimento e per lavoro. Fatico a fare una classifica in termini di sesso, perché ci sono delle donne bravissime e delle donne molto meno brave. In linea di massima trovo che siano molto più simpatiche, frizzanti e divertenti le donne sia su Twitter che su Facebook. Ma questo non riguarda soltanto i social, riguarda proprio l'universo mondo, quindi è soltanto uno specchio di quello che capita nella realtà. Sappiamo che Scanzi è un piacione, ma il tuo ruolo dovrebbe essere... Dovrebbe essere di agente provocatore, dovresti azzannare le nostre, come dire, i nostri luoghi comuni di donne. C'è qualcosa che nel rapporto, diciamo, con le tue lettrici, le telespettatrici, chi ti segue, ti fa un po' sorridere? C'è un lato debole su cui consentiti qualche ironia? Noi ci prendiamo in giro volentieri. Ma sì, ma lo so benissimo che lo fate anche molto bene. Se applico questa valutazione a quello che scrivono su di me e al rapporto interpersonale che ho con loro, che ho con le donne, con le lettrici, ci sono dei commenti di tutti i tipi. Sicuramente alcuni fanno molto sorridere, ci sono quelle che sono convinte di conoscerti da una vita semplicemente perché ti guardano in televisione, ci sono quelle che notano soltanto la camicia e non notano magari quello che hai detto, ci sono quelle che ti prendono in giro perché ti metti di male, ci sono quelle che ti scrivono dei commenti straordinari dopo averti visto a teatro, e siamo sempre lì. Ci sono dei commenti straordinari e dei commenti che non lo sono. Ma prima, quando dicevo che spesso sono più colpito da alcuni commenti anche sagaci, anche sapidi, anche forti e urticanti nei miei confronti, più femminili che maschili, c'era sicuramente un piacionismo autoironico, ma c'era anche una constatazione, è un dato di fatto. Spesso mi diverto di più a leggere le donne che non gli uomini, anche sui social. Ecco, però ti diverti a leggere i politici? Come lo usano? Come li usano i social network, Facebook o Twitter, i politici? Chi è uno bravo e uno che non lo è? Anzitutto li usano troppo e si sono completamente infervorati per questo giochino e sono convinti di parlare con 3 persone, in realtà stanno parlando con gli elettori di tutta Italia e non se ne rendono conto, quindi c'è un atteggiamento bambinesco e narcisistico imbarazzante che è trasversale e riguarda anche i politici come i giornalisti, come tutti. Chi sono quelli bravi? Renzi è uno che lo usa troppo, ma lo usa bene. Lo usa troppo, infatti sta trasformando la politica in una politica un po' troppo dipendente dagli hashtag, però lo usa bene. I renziani un po' meno, ma lui lo usa bene. Salvini lo usa bene, ma lo usa di pancia, come lui fa in ogni suo singolo aspetto. È uno che cerca la polemica, lo scontro, lo slogan immediato, facilone, però comunque funziona, anche su Facebook, scrive dei post che io a volte fatico a leggere per quello che contengono, però comunque ha molti seguaci e riesce ad averne sempre di più. Beppe Grillo lo utilizza in una maniera molto semplice, perché non fa altro che ritwittare tutto ciò che riguarda il Movimento 5 Stelle, deputati e senatori, oppure, non risponde mai. Oppure criticare i giornalisti. Beh, come ha fatto con me, come ha fatto anche con me di recente. Lo ha fatto anche con me qualche anno fa, che sono ritenuto simpatizzante, quindi non oso pensare con quelli che gli stanno anche ancora più antipatici. Ma io non credo di stargli antipatica, non credo proprio. È venuto anche in trasmissione da me, quindi non dovrei stargli antipatica, però vabbè, fa parte del... Fu anche una delle interviste in cui tra l'altro ne uscì meglio e non sbroccò, no parlavo in generale con... mi riferivo ad altri giornalisti. Chi invece secondo me lo usa profondamente male, se devo fare un nome, per esempio Gasparri, cioè Gasparri trovo che ogni volta che fa un tweet sbaglia tutto, ma in generale, senza voler fare troppo il discorso, il centro-sinistra le usa bene, il centro-destra no. Devo dire che nel centro-destra ancora devono capire un po' la materia, a parte Salvini, a parte la Meloni, i vari Brunetta, i Gasparri, quelli che sono stati un po' i leader, purtroppo aggiungo io, della Seconda Repubblica, non hanno capito tantissimo come funzionano i social. Adesso ci arriverà una telefonata di Gasparri, lo sento. Grazie. È probabile, ma tanto c'è un grande rapporto tra me e lui, quindi... Buona domenica, Andrea, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie a te. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E come di consueto, adesso è il momento della nostra Sunday Girl. Milioni di dischi venduti, una vita intensa, è una delle più forti icone pop dell'Italia anni 60 e non solo. Rita Pavone, buona domenica, benvenuta buona a Nessuna domenica, è perfetta. Grazie. Dalla partita di pallone a Datemi un martello, al ballo del mattone, Come te non c'è nessuno, Cuore. Quando pensa come erano le ragazzine che... svenivano quando venivano ai suoi concerti, compravano i dischi, e le confronta con le coetanee di oggi, con le ragazzine di oggi. Che cosa le sembra che sia totalmente diverso? Beh, totalmente diverso dal fatto che una volta un milione di dischi era un disco d'oro. Oggi si vendono 25.000 copie e si dà il disco d'oro. È cambiato tutto, è cambiato il modo di pensare, ognuno si fa la propria compilation e finirà che non esisterà più il fisico, cioè il disco, esisterà qualcos'altro. C'è molto rammarico da parte mia, nel senso che credo che avere ancora in mano un vinile voglia dire qualcosa, avere dentro la musica. Sì, i ragazzi tornano un po' ad apprezzarlo. Senta, Rita Pavone, quando lei cantava Datemi un martello, lo voglio dare in testa, ce l'aveva con una rivale, no? Sì. Ecco, è un po' la chiave sempre lì, no? Le donne in competizione per un maschio, in competizione per un lavoro, poco solidali, no? Mi sbaglio? No, non sbaglio affatto. Trovo molta più solidarietà tra gli uomini che non tra le donne. C'è sempre una forma di rivalità. La canzone in se stessa era una canzone politica, pacifista. Poi naturalmente detta da me, da una ragazzina, non avrebbe suonato credibile. Allora mi ricordo che Bardotti la stravolse, la fece diventare una canzone di ripicca. Mia madre che mi telefona mentre mi diverto, la ragazza che perché è più bella e si prega tutti i ragazzi più carini. Certo, era una canzone, non siamo solidali e mi dispiace perché noi donne siamo una razza forte, tenace, dura e testarda, e se riuscissimo a trovare un'unione di intenti saremmo veramente il massimo. Senta, non ma ci batterebbe nessuno. Su questo è proprio come dire, ormai quasi un dato di fatto, poi però invece ci battono. Ci battono perché sono più solidari gli uomini tra di loro, hanno più, cercano un punto di incontro, noi non lo cerchiamo quasi mai, siamo tutti individualiste e questa purtroppo è una nostra pecca. A chi lo tirerebbe oggi quel martello? Addosso a chi? Non me ne basterebbe uno. No, beh. No, quanti le ne servirebbero? Molti, troppi. Le cose vanno un po' così alla... Così al... che uno dice va bene, vale la pena neanche di utilizzarlo, perché in realtà il mondo potrebbe essere migliore e ce lo stiamo rovinando da soli. Quando lei cantava ed era, come dire, la star, la cocca di tutti i suoi coetanei, aveva anche questa immagine di ragazzina controtendenza, fece ovviamente scalpore il fatto che lei sposasse il suo manager Teddy Reno, che aveva 20 anni più di lei. Oggi fa un po' sorridere, no? Perché, oggi fa sorridere, veramente. Nessuno si scandalizza più perché ci sono dei settantenni che si sposano le ventenni. Quindi... Sì, appunto. No, è che noi al momento fu una... Ma era anche dovuto al fatto che io sembravo molto più bambina di quanto non fossi. Fisicamente ero una ragazzina, è chiaro che questa differenza d'età si notava. Oggi non si nota più tra me e mio marito. Mio marito li porta magnificamente bene sui prossimi 90. Fantastico. Sì, fantastico, sì, bello lucido, canterebbe sempre, lui vive per stare in palcoscenico, e che allora era un fatto abbastanza singolare. Ma io è la realtà che nessuno capiva, che nonostante io avessi un fisico da bambina, io avevo gli ormoni che funzionavano magnificamente bene, solo che le cosine che gli altri mostravano di fuori io non le avevo tutte di dentro, ma non riuscivo a mostrarle. Però io avevo una sensibilità, avevo tutte quelle cose, quei brividini che avevano tutte le mie coetanee. E allora era più difficile farlo capire. Questo rimase un po' così, diciamo, colpita l'opinione pubblica del momento, perché la vedevano come una ragazzina, in realtà la vedevano come Gian Burrasca, quindi come un ragazzino. Ma Gian Burrasca anche è arrivato dopo, sì, certo, incarnavo bene quel personaggio, perché quando io me ne sono resa conto, non il momento che l'abbiamo registrato, ma dopo qualche anno, io mi sono resa conto che io passavo in mezzo ai maschietti e sembravo veramente un ragazzino, ero credibilissima. Pertanto devo dire che è stato un ottimo lavoro di attrice, non è stato una... Però c'era questa tendenza di essere così piatta, pensi, molto magra. Pensi, oggi se recitasse di nuovo Gian Burrasca, dico, se le cose fossero applicate all'oggi, saremmo qui a parlare di eterosessualità, di transgender, cioè... La discussione sarebbe tutta su un altro terreno, invece nel 1964 era la cosa, come dire, più normale del mondo che una nota cantante recitasse nei panni di un maschietto. Ma sì, non c'era. E io quando me lo offrì la Lina Wertmüller, io rimasi un po' sconcertata, proprio perché io sapevo di avere questo problema di non riuscire a dimostrare gli anni che avevo, ma il fatto che pensassero a me un maschietto, quello che mi è interessato subito è stato il fatto che io non volevo essere credibile, non volevo essere un personaggio in travesti. Senta, questa nostra trasmissione, Nessuna è perfetta, ha una fissazione. Noi cerchiamo di smitizzare un mito, che è quello del multitasking. Lei è stata, è o non è più vittima del mito del multitasking? No, io sono una che lavora da sempre, perché questo è stato il mio mestiere, un mestiere che io ho voluto fortemente. E cerco di essere una buona madre, so di aver mancato spesso e volentieri a dei momenti in cui sarebbe stato giusto che io fossi presente, però ho trovato dall'altra parte due complici, i miei due ragazzi, Giorgio e Alex, che hanno capito il mio amore per il mio mestiere. E allora loro sono stati molto complici in questo fatto, tanto è vero che sono stati i primi a dirmi quando c'è stato Renato Zero, dopo che erano già 7-8 anni che io ero fuori dal lavoro, che avevo deciso di chiudere, quando Renato mi ha chiamato per i suoi 60 anni, perché era un mio collettone, lavorava con me nel tempo del GG, i miei figli mi hanno detto no, tu ci devi essere. E nonostante io abbia dei miei piccoli rammarichi, perché veramente soprattutto col primo è stato difficile, perché mi trovavo già in tournée quando è nato Alessandro, io ho scoperto che loro mi hanno perdonata, se vogliamo dirlo tra virgolette, no? Nel senso che hanno capito che mamma sta bene così, mia madre è felice così, e se lei è felice noi siamo tutti felici. Senta, in conclusione, un consiglio per staccarsi dal lavoro, perché viene un momento, no, in cui una va in pensione, finisce, no, un ciclo, e però magari comincia un altro in cui non è necessariamente non significa necessariamente essere meno attivi. Un consiglio per vivere bene il cambio di ciclo. Diciamo che io l'ho vissuto appunto 7-8 anni, mi sono divertita tantissimo, ho conosciuto la Movida, ho vissuto in Spagna, a Mallorca, e mi sono divertita tantissimo, i miei figli sono venuti con me, ho cercato di ritrovare un altro senso alla mia vita. Oggi sono tornata a lavorare, ma non mi prendo più quei ritmi, io oggi faccio quello che mi piace, quello che mi diverte, cerco di non dimenticare il mio lavoro di madre, di sposa e di moglie, però lo faccio, cerco di non entrare più nel giro, voglio scegliere, voglio fare delle cose che mi diano gioia ma che non tolgano niente alla mia famiglia. Grazie Rita Pavone, grazie per essere stata con noi a Nessuna è Perfetta. Buona grazie domenica a lei. Grazie. Buona domenica anche a lei, arrivederci. Grazie. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Come di consueto, questo è il momento della domanda della settimana. Vi ricordo che tutti i vostri dubbi di lavoro e di vita con i colleghi possono essere oggetto della nostra trasmissione se voi ci scrivete all'indirizzo mail nessunaeperfetta@radio24.it e scriveteci anche su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta o sulla nostra pagina Facebook. Tra l'altro grazie, perché ci state seguendo sempre più numerose e numerosi, e questo ci fa molto molto piacere. La lettera di oggi ce la scrive Camilla. Lavoro in un'azienda di consulenza e da un mese ho assunto il ruolo di capo progetto di un deal che riguarda un importante cliente. Le tempistiche sono strette e i ritmi di lavoro serrati. Nonostante questo, una collega che lavora nel mio team ed è in possesso di informazioni importanti per la chiusura del progetto, sembra non intuire l'urgenza del lavoro. Devo sempre sollecitarla per le consegne e il bello è che ogni volta che passo davanti alla sua postazione la trovo impegnata su Facebook, Twitter o cose del genere. Gliel'ho fatto notare, lei mi ha risposto che le servivano per svolgere ricerche. Io invece temo che utilizzi i social per scambiare notizie sul lavoro che sta svolgendo, senza considerare la riservatezza delle informazioni di cui è in possesso. Magari è ingenua, ma come mi devo comportare? Già, come ci si comporta in casi così? Lo chiediamo a due esperti, Luca Colombo, country manager di Facebook Italia, benvenuto, buona domenica, e Alessandro Bellavista, ordinario di diritto del lavoro all'Università di Palermo e componente della consulta giuridica della CGIL. Allora, Colombo, partiamo subito con la questione. Ci sono delle professioni in cui usare i social è di primaria importanza, serve, però c'è anche sempre il dubbio che aleggia e invece si sta sui social per rilassarsi, per divertirsi, invece di lavorare. Beh, questo è il dubbio ovviamente che hanno molte persone, soprattutto con strumenti nuovi come questi, perché comunque hanno una storia recente. Credo che se torniamo indietro negli anni e pensiamo al telefono, anche quello poteva essere considerato uno strumento che poteva far perdere del tempo. Oggi credo per tantissimi è stato così, no? Però oggi se ha visto il film di Zalone, le telefonate alla mamma. Esatto. Quindi è una questione, se vogliamo, di abitudine in questo momento e di cultura. È chiaro che noi siamo un po' di parte, però li utilizziamo per lavorare. Credo che in generale questo genere di problematiche scompaia nel momento in cui cambia anche un po' l'approccio al lavoro, perlomeno così, almeno siamo abituati noi, vediamo che lavorando per obiettivi e cercando di identificare chiaramente quelle che sono le motivazioni dello spendere del tempo all'interno di un ufficio insieme delle persone, come spenda il tempo le persone per noi non è importante. Quindi è importante sapere qual è l'obiettivo da raggiungere, poi c'è come libertà, lo raggiungi sono fatti tuoi, chiaramente all'interno di canoni aziendali, certo. Però come le persone lo raggiungono deve essere lasciato alla libertà, diciamo, al singolo. Quindi che spendano tempo su Facebook, Twitter o altri social o stiano al telefono è poco rilevante se poi l'obiettivo viene raggiunto. Esatto. Professor Bellavista, l'ascoltatrice che ci ha scritto, Camilla, rivela anche di temere che l'uso dei social media, magari ingenuamente, comporti anche il rischio di divulgare delle notizie sensibili e riservate sul progetto al quale la sua collega sta lavorando. In questo caso, se per caso venisse accertato che così è stato fatto, ci sarebbero gli estremi per un licenziamento? Ma intanto bisogna accertare, voglio dire, la gravità del comportamento, perché voglio dire, una cosa è divulgare così notizie irrilevanti, un'altra cosa è divulgare veri e propri segreti aziendali o idee innovative, pensiamo ipoteticamente ad esempio a coloro i quali possono lavorare su un progetto di sviluppo di un videogioco o di un programma informatico dove si lavora per mesi se non anni e vi sono grossi investimenti da parte dell'azienda. Quindi conta la gravità del comportamento, nessun giudice giudicherà legittimo un licenziamento semplicemente perché un lavoratore ha divulgato così, utilizzando un social network, diciamo, una notizia dicendo io sto lavorando e basta. Ovviamente questa è la risposta più semplice. Dice, ecco, ma l'utilizzo durante l'orario di lavoro dei social network, professore, è comunque oggetto di dibattito non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Può comportare sanzioni disciplinari sia nel settore pubblico che nel settore privato? Allora, io concordo pienamente con chi mi ha... Con Luca Colombo, il country manager di Facebook Italia. Luca Colombo, che è intervenuto poc'anzi, in quanto ormai le nuove modalità organizzative tendono a lavorare su progetti obiettivi e quindi è irrilevante sostanzialmente un ancoraggio, voglio dire, al tempo lavorato. E questa è la prima osservazione, ma c'è un'osservazione, diciamo, più strettamente giuridica, che la normativa in tema di tutela dei dati personali, sia a livello europeo ma anche a livello internazionale, e le pronunce più importanti delle corti affermano il principio che nel luogo di lavoro deve essere garantito, diciamo, un ambito ragionevole di privacy, di riservatezza. Questo cosa significa in estrema sintesi? Significa che il lavoratore, voglio dire, entrando dentro l'azienda, voglio dire, ha dei diritti di socializzazione, e la socializzazione, come avveniva un tempo, possiamo dire, nell'assemblea, nell'affissione di un tazzebao, una distribuzione Valentino, oggi può liberamente avvenire tramite social network. Quindi ovviamente le forme di controllo che si possono ovviamente realizzare devono essere strettamente giustificate. Quindi faccio un esempio: se l'azienda mi dota di un computer, mi munisce di uno smartphone per svolgere delle attività lavorative, e non può pensare di poter controllare il mio comportamento in modo indiscriminato, ma deve ovviamente preventivamente elaborare una policy aziendale in cui deve informare me e tutti gli altri colleghi della possibilità di un controllo e eventualmente raggiungere anche, voglio dire, una interlocuzione alle organizzazioni sindacali, perché questo è quanto, voglio dire, si risulta dalla normativa vigente. Ecco, io però chiedo a Luca Colombo cosa pensa lui del fatto che ci sono stati numerosi episodi, ci siano segretarie che annunciano le loro dimissioni, no, su Facebook, appunto, oppure ci sono stati dirigenti che hanno messo su questa piazza virtuale nella quale ormai tutti viviamo gli attriti sindacali, gli stagisti che pubblicano le foto delle feste aziendali. Tutto questo poi produce delle conseguenze, fa nascere dei problemi, fa litigare i colleghi. Ma diciamo che partiamo dal presupposto che il digitale o lo strumento social non è differente rispetto a quello che è la vita quotidiana, diciamo fisica, mettiamola così. Vale sempre il buon senso, quindi al di là di quelle che sono rispetto della legge o meno, il gusto o l'approccio che hanno le persone al mondo dei social è molto personale. Chiaro che ci sta anche del buon senso, oltre che rispettare quelle che sono informazioni confidenziali o di privacy dell'azienda. Quindi fin tanto che si sta all'interno di un insieme di rispetto delle regole, credo che stia però molto... Quindi quello che scrive Camilla, che teme che una collega un po' facilona diffonda delle notizie che dovrebbero rimanere all'interno dell'azienda via social network, lei come lo... che consiglio darebbe? Se vengono diffuse informazioni confidenziali dell'azienda e queste vanno a ledere il rapporto che c'è tra la dipendente e l'azienda, secondo me non è corretto, ma questo vale non per Facebook e Twitter, vale per qualsiasi tipo di strumento, via email o anche al telefono. Quindi, ripetevo, fin tanto che si sta all'interno della regolamentazione, sta poi dopo al buon senso delle persone come utilizzare questi. Io ho una sensibilità magari meno social, sebbene lavori in uno strumento, in un ambiente che è molto legato a questo ambito, ci sono altre persone che invece mettono in piazza tutto, quindi questo è legato molto alla sensibilità di chi utilizza questi strumenti. Non mi sento di dire giusto o sbagliato, sta molto a quello che è il buon senso. L'ultima domanda invece, ritorno sul caso di Camilla, da manager si estranei un po' dal ruolo che ha di country manager per Facebook, che consiglio darebbe alla nostra ascoltatrice? Far finta di niente, incontrare vis-à-vis la collega e dirle non, non ti pare di stare troppo sui social network, che consiglio le darebbe? Da manager si estranea un po' dal suo ruolo. Cerco di dare una risposta legata al mio quotidiano. Ci sono delle persone nell'ufficio da noi che hanno un approccio di un certo tipo e altre che ne hanno un altro, quindi è difficile dire qual è lo schema giusto. Credo che per tutti vada un po' applicato quello che dicevo prima, un buon dialogo tra le persone innanzitutto è la prima cosa, quindi al di là dei social, avere un dialogo nell'ufficio piuttosto che faccia a faccia. È la cosa che ovviamente fa la differenza. Dopodiché avere fiducia nelle persone affidando degli obiettivi e misurando quegli obiettivi, semplice. È chiaro che le aspettative di chiunque verso una persona devono essere dichiarate ben chiaramente fin dall'inizio e poi misurarle. Fintanto che questo avviene e si rispettano quelle che sono scadenze e obiettivi, come viene raggiunto quell'obiettivo poi diventa relativamente irrilevante. Grazie, grazie a Luca Colombo, country manager di Facebook, grazie al professor Bellavista, una buona domenica a tutti. Grazie, una buona domenica a voi. E adesso noi torniamo tra pochissimo con i consigli della nostra coach. Proprio come voi, di chiacchiere non ne possiamo più ed è per questo che ci occupiamo solo dei fatti. Un'ora di informazione dall'Italia, dall'Europa, dal mondo, con servizi, interviste e analisi. Vi aspetto con tutta la redazione di Radio 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Da lunedì a venerdì alle 13 con Simone Spezia. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E avete sentito i consigli dei nostri esperti, ma noi come tradizione facciamo sempre il punto con la nostra coach per capire come si deve comportare Camilla rispetto a questa collega che da un lato, secondo quanto ci scrive Camilla, è sempre sui social network e dall'altro è un timore che esprime la nostra ascoltatrice, forse proprio sui social network si lascia scappare cose che riguardano un progetto riservato dell'azienda e sulle quali invece sarebbe tenuta alla riservatezza. Buona domenica Carla Ciani, buona domenica e grazie per essere buona con domenica. Noi. Buona domenica Nessuna Maria, perfetta. Buona domenica a tutti. I temi sono due, da un lato il rispetto dei tempi di lavoro e dall'altra la responsabilità nell'utilizzo di dati e informazioni sensibili. Uh-huh. Partiamo dal primo. Era qui con noi prima il country manager di Facebook che dice ma a noi a Facebook non ce ne importa niente di come i nostri colleghi impieghino il loro tempo, possono anche stare sui social network e non ce ne importa. L'importante è che portino a casa l'obiettivo che abbiamo stabilito. Mentre invece Camilla sembra piuttosto sospettosa del tempo sprecato, secondo lei, da questa sua collega sui social. Credo che prima di tutto si debba capire se Camilla è un capo o è un capo progetto. È un capo progetto. Lei è un capo progetto. Quindi una prima cosa da verificare è se questo ruolo di capo progetto che Camilla ha assunto è stato comunicato in maniera adeguata, perché bisognerebbe appunto indagare sull'effetto che questo incarico ha prodotto sulla collega, magari rivalità, delusione. E quindi per far rispettare i tempi di lavoro Camilla dovrebbe pretendere che i suoi capi siano molto chiari e esprimano in modo inequivocabile a tutti i suoi colleghi del team la sua autorità rispetto al progetto, anche se è un'autorità temporanea, in modo che le venga certo riconosciuta, mentre spesso l'urgenza impedisce una comunicazione efficace in questo senso. Questo è un primo punto che Camilla dovrà evidentemente accertare, perché se non è stato comunicato si toglie autorevolezza anche ai suoi interventi. E spesso queste persone che non hanno avuto una efficace comunicazione si trovano costretti a giustificare il loro incarico con i colleghi, mentre dovrebbe passare proprio una comunicazione chiara e inequivocabile. E poi deve organizzare il lavoro, cioè se è capo di un progetto deve fare il capo, quindi deve definire le scalette, le scadenze per ogni singola attività, deve gestire dei momenti di verifica, chiedere dei resoconti sullo stato di ogni singola attività, di ogni contributo. E lo deve fare perché non è solo un modello di controllo, ma è un processo di lavoro, una modalità che aiuta anche a superare le criticità quando c'è urgenza e soprattutto a non ripetere gli errori. Infatti, un capo che voglia far rispettare i tempi di lavoro può tenersi alla logica che ci enunciava prima Luca Colombo, il country manager di Facebook, cioè fate quel che vi pare ma portate l'obiettivo, fate quel che vi pare nel contesto, diciamo, delle regole che sono fissate all'azienda, quel che importa è l'obiettivo, o no? O bisogna attenersi ad altri criteri? Interessante la logica di arrivare comunque al risultato, ma in realtà si deve in qualche modo pretendere anche una tracciabilità, soprattutto quando le questioni sono riservate, pretendere di avere un elenco delle fonti, dei pareri richiesti, gli interlocutori che vengono interpellati e non solo per la questione della riservatezza o per un controllo, ma per rendere davvero fruibili anche per il futuro i vari criteri di ricerca. Cioè il rapporto con internet e con i social è sicuramente individuale, ma il patrimonio informativo e relazionale deve essere finalizzato a un beneficio più ampio per l'azienda e quindi condiviso. Ma diversamente la proprietà. In pratica questo consiglio che tu daresti a Camilla è di chiedere un rapporto di tutti i social consultati per lavoro? Ma se non un rapporto sembra un po' problematico. Sì, è problematico, non tanto un rapporto ma quanto una mappatura delle ricerche che lei ha inteso fare. Si tratta in realtà di sviluppare una intelligenza organizzativa, cioè prima di internet l'organizzazione delle informazioni era supportata da documenti e da uno svolgimento anche delle ricerche di tipo sequenziale. Sì. Ora tutto è accessibile e disponibile e fra l'altro si interfaccia anche molto bene con una dotazione naturale delle donne, no? Che è il pensiero interconnesso. Che c'hanno le donne? Le donne hanno una capacità, una grande dotazione, quella di poter vedere più cose assieme e metterle velocemente in connessione. Allora ti faccio un esempio per non andare troppo in profondità. Se stiamo facendo una ricerca, come in questo caso una ricerca, mi pare di aver capito, nell'ambito finanziario e l'azienda è un'azienda di calzature e siamo lì a guardare i suoi bilanci o la compagine societaria, poi di calzature si tratta e forse la donna che è capace di supportare più pensieri, poi dalle calzature della ricerca va a finire su Zalando, magari sposta la sua mente in altri interessi, no? Questa è, come dire, una seduzione facile di internet. E quindi Camilla ha ragione di temere che questa sua collega sprechi tempo andando sul web? Non lo sprechi in realtà, ma magari si faccia un po' distrarre o vada in determinate profondità che non sono così finalizzate magari all'obiettivo. Quindi si tratta in realtà di chiedere alla collega di Camilla una mappatura della sua ricerca, una specie di mappa mentale che lei si è costruita. Perché così è anche utile al lavoro che stanno facendo gli altri colleghi. Grazie Carla Ciani, il nostro tempo si è rapidamente prosciugato, come sempre succede quando lavoriamo con la nostra coach. Io auguro buona domenica a lei, grazie a Carla Ciani, buona e buona domenica a voi che ci avete seguito anche questa domenica. Il pensiero delle donne sarà interconnesso, ma il multitasking resta una fregatura.